piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Quante volte ci è capitato di vedere uomini attempati in compagnia di belle ragazze, anche 30 anni più giovani? Si dice sia il fascino dell'esperienza, della maturità, ma è cosa molto più rara vedere in coppia un giovanotto e un ultra sessantenne, almeno fino ad oggi. Queste immagini sono state girate in un locale di Milano, dove questo genere di coppie non sono affatto rare. È pieno di signore anzianotte e ragazzoni palestrati che se le contendono. Guardate, c'è chi balla un lento, chi fa due chiacchiere a bordo pista, chi fa il sandwich e chi si dà a balli decisamente più scatenati. E non solo in questo locale le coppie di sciure ragazzotti non sono rare, ma sono le uniche. Queste donne voi non potete vederle, ma vi assicuro che l'espressione che hanno stampato in faccia è davvero soddisfatta. Il motivo per cui queste ultra sessantenni vanno in cerca di ragazzotti africani, beh, ce lo possiamo immaginare. Quello che invece facciamo fatica a capire è perché questi giovani dal fisico scolpito siano così ben disposti nei confronti di donne non proprio attraenti. L'unico modo per scoprirlo è andare a una di queste serate. Mi infilo a loro una parrucca, un paio di occhialoni e sono pronta. Intuisco, immagino e prevengo l'ipotesi che possa essere crudele il giorno del trionfo del referendum ricordare questo servizio dell'ottima Nadia Toffa delle Iene, che era del 2013, intitolato African Gigolo. La brava giornalista si era camuffata da sciura attempata di media età, era andata in un localino di Milano dove pare, ci sono le prove, ascolteremo nel corso della trasmissione, un folto gruppo di donne appassionate, affocate dal demone carnale, lì trovavano il frutto proibito della loro concupiscenza, che veniva sintetizzato, quel termine divertente, goliardico, forse lievemente osé, che viene usato dalle turiste sessuali quando dicono dove andate, andiamo in cerca del Big Bamboo. L'ho detto così, poi ci siamo tolto il pensiero. Ma perché ritiro fuori questo servizio? Non per dileggio degli autonomisti che sanno che poi alla fine il pericolo è nelle zone più intime, nei recessi più riposti, nelle zone più innominabili di quello che è lo spirito genuino dell'essere lombardi. No, lo dico perché ho individuato un nuovo filone giornalistico. Un nuovo filone giornalistico si muove a fronte di una nuova maniera del sentire o del pensare. Il tema è naturalmente quello dell'immigrazione. Il tema è di tutto quel giustificabile coacervo di paure, timori, pregiudizi e a volte anche false notizie che girano attorno allo spettro del fatto di essere invasi, di essere colpiti, di essere contaminati. È un po' calato il filone degli stupri razziali, perché se ne è parlato molto, ricordate, abbiamo seguito anche la polemica, sembrava che improvvisamente ci fossero soltanto orde scatenate di stranieri che volessero stuprare donne bianche in Italia. Poi abbiamo visto che ci sono sì stranieri che stuprano donne bianche, ma anche bianchi che stuprano donne bianche o viceversa. No, oggi il filone è diverso, è molto più insidioso, perché dà corpo a quello che è una delle più inconfessabili paure che ha in sé l'uomo medio italiano, ma non soltanto italiano probabilmente, di essere insidiato nella sua armonia sentimentale, coniugale, amorosa, familiare, da qualcuno che prenda il suo posto di maschio dominatore in questa sorta di organizzazione. E chi meglio che colui che è dotato di tutte quelle fantastiche qualità di forza, di primitivismo, di bellunismo, di prestanza fisica e di dotazione fantasmatica e immaginifica, come appunto l'uomo che viene dalla terra lontana dell'Africa? Beh, devo dire che questo pensavo che fosse soltanto retaggio di una sorta di narrativa di un B-movie degli anni 70 con Bobbolo, Alvaro Vitali, un filone misto in cui c'era sempre questa sorta di ipermaschio che attentava comunque le flaccide virilità nostrane. Ma però invece vedo che c'è un nutrito filone giornalistico che voglio percorrere questa mattina. Perché lo voglio percorrere? Lo voglio percorrere per vedere cosa c'è veramente di concreto dietro. È soltanto il concretizzarsi di una paura generalizzata. Siamo circondati da tanti ragazzi, giovani, gagliardi, fisicamente prestanti. Noi non siamo più quello che una volta pensavamo di essere, cioè l'orgoglio della virilità, e quindi probabilmente cominciamo a pensare che ci sia una sorta di accondiscendente connubio fra le nostre donne e loro. Beh, 800 24 00 24, datemi conferma o smentita di questa impressione che oggi vi racconto attraverso alcuni articoli. Il primo è del Corriere Adriatico. Operaio rientra a casa e scopre la moglie a letto con due stranieri, urla e spintoni. Ascoli, due vucumprà che vendono capi di abbigliamento contraffatti davanti a un centro commerciale, c'è anche il nome, Città delle Stelle, Villa Sant'Antonio. Sono rimasti coinvolti in una vicenda a luci rosse, insomma ve la sintetizzo. Una giovane signora, perché è sempre giovane la signora che risiede a Ascoli, sposata diversi anni con un operaio, compra la merce contraffatta, quindi due vendevano già merce contraffatta. Il marito paga e via dicendo, tranquillamente, compra il vestitino alla moglie con la marca finta, è tutto contento. Però giorni fa, cioè tutta la storia, non entro nei particolari, insomma torna a casa per un imprevisto sul tempo del lavoro, rientra in un momento non doveva rientrare e trova la moglie che era distesa in un materasso in compagnia dei due extracomunitari. Ci è mancato poco che lo sfortunato operaio non venisse colto da un malore. È scoppiato un immaginabile putiferio, insomma l'uomo ha fatto la valigia e se n'è andato. Ma nell'immaginario generale c'è la donna, attratta dalla prestanza dei due venditori di merce contraffatta, giace con entrambi sul materasso, il marito entra e trova improvvisamente fallire tutto il suo sogno d'amore. Secondo voi è qualcosa che può essere accaduto veramente? Ne avete notizie? Avete impressione di fatti simili? Sapete di qualcosa che succede alle vostre latitudini? 800 24 00 24. Tu vieni qua per bucare, sai che cucchi, se vengo qua torno a casa con la mia preda. Mi trovo alle volte molto annoiata, molto sola, e trovare un uomo che mi corteggia, anche se lo so che è solo un gioco, diciamo, mi piace per una sera diventare una donna desiderabile. Sì, ci vengo per uno scopo ben preciso, voglio conoscere un uomo che mi attraga fisicamente e basta, che mi farà passare il resto della nottata come dico io. Ma cosa le attrae di questi omaccioni? Una cosa fondamentale, l'odore, questo odore di uomo, odore afrodisiaco, eccitante al massimo. Sono uomini molto belli, vedi, guardate in giro, sono tutti giovanissimi, bellissimi, con questi pettorali scolpiti. Il servizio da Toffa già in sé dava una sintesi di quello che è poi lo svolgersi di questo racconto delle signore milanesi affascinate dai pettorali scolpiti, dall'odore di maschio che non si sente più e che sentivano da questi giovani immigrati, che naturalmente avevano capito il gioco e andavano in questa discoteca, ballavano balli afro, si scatenavano queste signore e poi le signore se li portavano a casa. Sembrava un fenomeno marginale, quasi un fatto di costume, quasi una sorta di singolarità, tanto da essere raccontato dalle Iene, ma io sto vedendo che comunque sta andando avanti questa sorta di narrativa nelle cronache della nostra provincia. Ho già citato il fatto di Ascoli, del signore che torna a casa e trova i due venditori di magliette col marchio contraffatto a letto con la moglie e naturalmente fallisce, si sente fallito in tutto quello che era il suo progetto amoroso e matrimoniale. Ma ancora di più la cronaca della Nazione di Beppe Nelli di qualche giorno fa, il 19 ottobre, allegre serate con i profughi, il via vai delle mogli del paese. Questa volta avviene a Camaiore, mi piacerebbe sapere anche persone di quella località se hanno sentito questa vicenda, perché è una vicenda che sicuramente avrà fatto il giro di tutti i bar del paese, di tutte le bocciofile del paese, di tutte le partite di calcetto del paese. La gente si darà di gomito, dirà: ma sarà moglie sua, sarà la moglie mia, sarà la moglie di quell'altro. Cosa è accaduto? A Camaiore la Misericordia, cioè il vescovo, i preti, insomma l'organizzazione ecclesiale del posto, aveva messo a disposizione un locale per accogliere giovani immigrati. Immigrati erano lì, come sempre accade in tanti posti d'Italia, stavano lì, passavano il loro tempo. Siccome era girata voce che nottetempo altre ragazze africane andassero a raggiungere gli immigrati per giustamente dare loro un conforto in questa solitudine e via dicendo, e questo non era permesso dai regolamenti, che probabilmente quando danno le organizzazioni ecclesiali un posto per tenerci gli immigrati devono essere, come era dai salesiani ai tempi del liceo, maschi da una parte e femmine dall'altra. pare che girasse voce che la notte qualcosa accadesse di strano, quindi si è appostata l'autorità locale per capire questo giro di signorine africane che andavano a confortare i loro connazionali. E pare che la scoperta tragica fosse che in realtà non si trattasse di signorine africane, ma si trattasse delle signore del posto, di tutte le età, nubili o sposate, che andavano a mettere in atto un loro concetto molto allargato dell'accoglienza, dell'integrazione. Ora, di questa cosa avete avuto notizia, ne avete parlato, conoscete qualcuno che veramente ha avuto la moglie che andava lì e, come sembra, in cambio di ricariche telefoniche si sollazzasse con i giovani e gli altri migranti, o se no, diciamo, si sta avendo una sorta di emersione di quelle sono le paure che sempre hanno colto la nostra, ahimè, timida e flaccida e pallida immagine di virilità. Paolo, buongiorno. Nicoletti, senta, buongiorno. Che lei debba fare notizia tutti i giorni, ci mancherebbe. Devo fare, scusi, cosa ho capito? Deve fare notizia. Notizia. Ma si va tirando un argomento, è come se questi negri... No, negri, parli per questi signori africani. Non... No, ma mi faccia parlare, poi mi puoi chiudere pure il telefono. No, non chiudo niente, parli, ascolta. Allora, lei attualmente sta facendo una politica pubblicizzando i negri che vengono qua in Italia con le italiane, perché non sta parlando... Sto leggendo degli articoli di giornale, signore, non pubblicizzo niente. No, va bene, ma è un argomento troppo pesante. Cioè, non andrebbe trattato, sarebbe meglio non parlarne? No, ma che vogliamo trattare? Ma che ci sta da trattare? Le scappatelle con i negri... i cavalli sono stati sempre, sono esistiti sempre. Ma lei dà tanto fastidio, scusi, che io parli di questo argomento. Un argomento che inculca la gente di andare alle donne italiane in modo particolare, di andare con i negri. Ma che cazzo di pubblicità? No, aspetti un attimo, Paolo, non parli. Sotto, se può, usi una maniera di parlare più civile, visto ci ascolta delle persone. Lei mi faccia capire, lei è giustamente indignato perché dice, raccontando questi episodi di cronaca presi da giornali, non è che me li invento io, sono colleghi che li hanno scritti, sto chiamandoli al telefono per avere più particolari, metti voglia alle nostre donne di andare a provare questi giovani ragazzi, questo pensa lei? Sì, ma se le va a battere, gli argomenti si possono trattare, ci mancherebbe, però è un qualcosa che cade e pesa parecchio a livello psicologico con le donne in genere, in generale in Italia. In Italia adesso non ce ne frega. No, però scusi Paolo, io prendo per buono quello che dice, non è che la sto né censurando né sfottendo, poi lei mi faccia capire, magari c'è qualcosa che non capisco io. Secondo lei, parlando di questi argomenti, metto la curiosità sbagliata, morbosa, colpevole nelle donne italiane di provare questi ragazzi? Questo vuole dire? Ma in effetti, guardi, in effetti, cioè, è una linea immaginaria che le donne iniziano a frequentare. Cioè, si va oltre un limite che prima si c'era. Può fare pure quello. No, si può fare pure quello, si può andare pure con i negri. Ma uno può andare con chi vuole, ma perché? Ci stanno pervertite, le cose ci mancherebbero. Ma scusa, perché è una perversione andare con una persona di un colore diverso di pelle? Perché è una perversione, secondo lei? Ma una persona normale. Ma no, sto dicendo, si possono fare tantissime cose, però se attualmente sta diventando una moda che le donne italiane, non so, sua moglie non credo assolutamente. Ma non lo so, ma sono fatti di mia moglie. No, non... psicologico non è. Non, cioè, la vuol mettere su un piano personale tua moglie e mia moglie, scusi, ma... No, sto dicendo... Non è corretto nemmeno verso la persona che lei ha nominato, scusi. Io scusi, no Paolo, non mi azzarderei mai soltanto di dire a lei una cosa del genere. Si rende conto la poca civiltà del suo paese? Io non mi azzarderei mai a dire, Paolo, tua moglie andrebbe con l'africano. Perché lei lo fa, scusi? Ma si rende conto? È una strada. Io non ma so no, Paolo, è una maniera incivile di parlare, se ne rende conto? Lei è una persona incivile, non è civilizzato, Paolo. Lei deve ancora. Ma per quale motivo, scusi? Per quale motivo? Per lei non si dice una persona, non so se è tua moglie, non è una cosa bella. No, aspetta. L'ha detto. Aspetti. No, io non è che faccio l'offeso. A parte l'esempio, la mia irruenza attualmente. Ma la sua irruenza cosa è data? Dalla paura? Da cosa è data? Però, come? Da cosa è data la sua irruenza? Dalla paura, dall'indignazione? Vuoi capire cosa c'è dietro? No, paura, assolutamente di che cosa? No, io non lo so. Lei tratta tantissimi argomenti, ottimi, però a volte Ma perché questo, vuoi capire, questo l'ha irritato più di tanto. Ragazzi, aspetti, come i ragazzi che si tagliavano, si facevano del male, cioè quello è un argomento, non tirare fuori, meno se le vabbè, Paolo, lei, questo è il suo punto di vista, lei pensa che argomenti scabrosi non vadano toccati perché creano un effetto di divulgazione. Io penso gli argomenti scabrosi vadano toccati, in questo caso l'argomento scabroso lo tocco perché mi fa sorridere. E la sua reazione mi dà la piena prova che il mio sorridere su questa cosa è giustificabile. Alessandro, buongiorno. Buongiorno. Vediamo se volevo dire la mia esperienza. Diciamo dunque, io all'incirca fino a un anno e mezzo fa ho lavorato nell'officina di mio zio che si trova di fronte a un semaforo a Cagliari, piazza Largo Gennari, posso dire anche il posto perché... Sì, bisogna essere precisi, sennò dopo... Era sotto gli occhi di tutti, quindi chi è della zona si riconosce, magari potrà anche rivivere quel periodo. E niente, accadeva questo, diciamo mezza mattina, venditore ambulante senegalese, palestrato, bel ragazzo, assolutamente, niente da dire, e si metteva al semaforo col suo borsone a vendere. Puntualmente arrivava la signora, lui saliva in macchina, lasciava il borsone, si intratteneva una mezz'ora, il primo drogato, ragazzino di turno in motorino, gli rubava il borsone, lui rientrava, non gliene fregava niente perché tanto aveva guadagnato la sua parte. Ma non solo a buttare dietro il borsone quando andava con la signora? Evidentemente era ingombrante in macchina. Quindi, ma era sempre la stessa signora o era una voce di... No, diverse signore. E poi tenga conto che c'era la piazzetta davanti. Gli anziani che si sedevano lì puntualmente tutti i giorni... Sapevano tutto. Quindi era diventata la barzelletta del quartiere, diciamo. Quindi... diciamo ormai queste cose sono sotto gli occhi di tutti. Allora fermi un attimo, abbiamo avuto finalmente la prima testimonianza delle tante dicerie e voci. In un semaforo ben preciso di Cagliari tutti i giorni si stazionava giovane palestrato senegalese, immagino, col borsone che vendeva merce contraffatta. Puntualmente qualche signora lo caricava, lo portava a fare un giro e lo riportava lì. Gli zingarelli rubavano il borsone, ma lui era talmente soddisfatto e appagato di questo giretto in macchina che non gliene importava niente e rinunciava al borsone. Altra notizia. 800240024, continuiamo tra un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Melog. Io con gli uomini bianchi non sono mai riuscita ad avere dei rapporti sessuali appaganti. I bianchi ormai, ti dirò, bianchi che si avvicinano, sessantenni, uomini così, che sinceramente no, non ce la posso fare. Poi tu considera che i ragazzi che ci sono qui sono tutti ragazzi molto giovani, quindi sai, mi piace che il mio occhio venga appagato anche. Beh, fra un sessantenne con pancetta e un ventenne con pettorali palestrati, la scelta è ardua. Ma anche fra un pettorale e l'altro ci sono delle differenze e lei ha le idee molto precise. Preferisco il senegalese, la razza mandinche, sono dei senegalesi che venivano trasportati da due... Va bene, le signore intervistate dalla Toffa, da Nadia Toffa, hanno capito anche il colpo d'occhio. I mandingo, che sono quelli famosi del film Radici, sono i migliori. Va bene, detto questo, mi stanno arrivando segnalazioni da tutta Italia, sempre di persone appostate ai semafori che vengono puntualmente caricate da signore. Ma mentre stiamo avendo queste importanti testimonianze, vediamo se è arrivata la testimonianza, chi è? La numero 5 è Alessandro. Eccomi qua. Alessandro, vediamo un po' la testimonianza di Alessandro. Ma niente, io come ho detto all'operatore, poi mi ha fatto un po' girare le scatole, non girare le scatole, ma un po' il signore che è intervenuto prima, che non bisogna parlare di queste cose, e io vorrei dire dove vive. Ma mica perché è un problema, perché analizzando la società... non voglio dire, l'ho pensato ma non l'ho detto, capito? Non lo so. No, però... anche perché la mia testimonianza è quella, perché è importante. Guarda, io ho detto 15 anni al suo operatore, ma sono anche di più. Sono 15 anni almeno, ma documentati, che noi abbiamo in questo paesino di provincia dove abitiamo, abbiamo questo centro. Qual è il paese? Preferirei non dire. Vabbè, no, la regione, almeno la regione. Dalla provincia di Monza, l'ho detto. Provincia di Monza, sì. La provincia di Monza, c'è questo posto che ha cambiato comunque tre gestioni, e praticamente da sempre hanno cominciato sti ragazzi a vendere, mi ricordo, i CD, i DVD, che c'erano anche i DVD, anche quelli porno, diciamo. e lì c'è sempre stato il via vai di signore e signorine che se li caricavano e se li portavano, e se li portavano via, poi li tornavano. Ma guardi, dottor Nicoletti, 15 anni a memoria, perché ne sono passati anche di più. Sì, ma a me posso dire una cosa, non è che scandalizzi in maniera particolare, perché i mariti e i fidanzati facciano le stesse cose lungo le strade, lungo i raccordi autostradali con le signore. Almeno questi probabilmente erano meno esosi dal punto di vista del compenso, eventualmente. Solamente perché se un fenomeno c'è, io sono per raccontarlo. Quindi c'erano dei ragazzi che oltre vendere merce contraffatta davanti ai supermercati, luoghi frequentati da donne, poi vendivano ogni tanto puntualmente caricati da signore e signorine. Può essere che li portassero anche a casa, non so, per farsi aggiustare il lavandino, fare dei lavori di fatica, non lo so, però comunque li caricavano. Vado a un altro episodio lo cito. Perugia Monastero ospita incinte sei suore, ospita immigrati. La storia era che a Perugia c'era un monastero che aveva ospitato gli immigrati, però pari nottetempo le giovani suore si intrattenessero con questi immigrati. Il frutto di questo intrattenersi era, dai titoli dei giornali, quindi accertato, certificato dalla stampa, che sei suore erano rimaste incinta. Però pare che almeno su questo caso ci fosse qualche dubbio. David Puente, buongiorno. David Puente è caduto. Vabbè, David Puente era al telefono, è la persona che dovrebbe rispondermi su questo. Ci sei? Sì, sì, io ci sono. Ah, scusa, no, abbiamo... Allora, è un informatico, un cacciatore di bufale sul suo sito davidpuente.it. Ha fatto varie inchieste anche con Paolo Attivissimo sulla fabbrica delle bufale. Sulle monache ingravidate a Perugia, hai delle certezze o hai delle smentite? No, è una storia che si ripete di volta in volta. Una volta era ambientato a Nola, poi è diventata Milano e poi è diventata appunto Perugia, cambiando semplicemente, o a parte il luogo, anche il numero delle... Lo schema era sempre lo stesso, lo schema era lo stesso. È sempre lo stesso, sono bufale che continuano a ripetersi di continuo. Funzionano e quando funzionano vengono riproposte a distanza di tempo, perché ovviamente qualcuno o si dimentica o è giusto partire fuori. La storia è questa, un centro immigrati, questa volta gestito da suore, rapporti fra suore immigrate e le suore rimaste incinta. Questo era il mood della storia, però alla fine non c'è stato un posto dove c'è stata certezza automatica e matematica del fatto che fosse avvenuto. No, non ci sono riscontri da nessuna parte, neanche una testata giornalistica, seppure anche locale. Quindi vengono diffuse queste cose, queste notizie da... siti che poi alla fine si va a leggere le righe in piccolo come nei contratti, si va a leggere che sono dei siti che si reputano satirici. Ah, alla fine possiamo anche vedere anche la fonte, non è propriamente attendibile. Sparano la notizia, il titolo viene ripreso, perché guarda, anche sulle due notizie date all'inizio sono uscite su tutti i giornali, del signore di Ascoli ha trovato la moglie con i due africani e del via vai delle allegre serate a Camaiore. Ancora aspetto qualcuno che mi dia certezza, al di là di un articolo di colore di cronaca anche divertente. Sentiamo Ivan, buongiorno. Buongiorno. Ivan, la sua testimonianza. Io abito nella Brianza, lungo la Valassina. C'è. Comunque tutti in Lombardia, la maggior parte di queste segnalazioni vengono dalla Lombardia. No, saperlo. Quindi? Lungo la Valassina c'è un negozio di elettronica e all'ingresso c'è di qualcuno di loro che vendono giubbotti, penso. Cioè degli immigrati di colore, questo sono. Esatto. Mi è capitato qualche volta di vedere il macchinone che si ferma, il ragazzo che sale su, butti l'occhio, vedi la signorotta seduta in macchina, prende e se lo porta via poi. Lei l'ha visto proprio? Cose. Cioè lei è un testimone o l'ha visto qualcuno gliel'ha raccontato? No, io l'ho visto proprio, perché passo da lì in bicicletta, mi è capitato un paio di volte di vedere questa cosa. Quindi, sembra, ci sono varie testimonianze che concordano, testimonianze dirette di prima persona, che ogni tanto c'è qualche signora che carica il giovane immigrato africano e lo porta via. Non sappiamo cosa ci faccia, però questo non possiamo dirlo. Possiamo dire soltanto che c'è delle signore, lo possono anche portare a fare una passeggiata, poi lo prendono. Può essere. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno, salve. Guardi, io ho un amico che è di colore ed è inglese. E guardi, nel corso del tempo mi ha raccontato tutte le sue peripezie amorose dall'Inghilterra qua. Avrebbe potuto anche sistemarsi in Inghilterra, però per amore ha seguito una ragazza ed è venuto qua in Italia. E poi anche qua ha avuto tutta una serie di fidanzate più o meno grandi. Sì, ma dov'è lo strano? Cosa c'è di singolare in questo, secondo lei? No, è normale, ha avuto proposte d'amore come qualsiasi altro italiano. Quindi diciamo la sintesi di questo discorso, che mentre parliamo di difficoltà di integrazione. In realtà l'integrazione su un certo piano è già avvenuta. Sì, sì, sì, sì, no. Cioè siamo nei contenti, alla fine ci strappiamo un po' meno le vesti, mentre la gente scende in piazza, basta, non li vogliamo più fuori, i mariti scendono in piazza, le mogli si sono già integrate, e questo vorrebbe essere il senso. Sì, ma lui era già una persona integrata a Londra, è un inglese, non è, sì, qua non però è lei sta parlando, sì, ma lei sta parlando di un altro livello, noi stiamo parlando di ragazzi che sono costretti a vendere merce contraffatta, probabilmente sono clandestini, non hanno ancora una collocazione nella società, ma la società che li respinge, in realtà all'interno della società ci sono delle fasce che bene o male in qualche maniera li integrano. Se, fermiamoci un attimo, che devo dare la linea, poi continuiamo perché abbiamo una testimonianza importante. Scopriamo che l'approccio è davvero semplicissimo. Lo guardo insistentemente, non ci vogliono molte parole, lui arriva subito. Comunque tutti sappiamo perché siamo lì, quindi questo scambia quattro chiacchiere, gli offro qualcosa da bere, mi lascio corteggiare un po'. Normalmente si esce, si va in hotel, è tutto molto naturale. E questi uomini non guardano molto per il sottile, il fatto fisico per loro viene in secondo piano. Cosa ci facciano qui queste donne ormai è chiaro, anche se non sono più nel fiore degli anni, hanno ancora voglia di sentirsi desiderabili, attraenti. Questo era un servizio, devo dire, ha anticipato una tendenza o perlomeno qualcosa che oggi sta emergendo. Ricordo, era Nadia Toffa per Le Iene nel 2013, il servizio era African Gigolo. Ora io faccio questa trasmissione non perché mi piaccia sguazzare nelle notizie pruriginose, perché sto osservando, fortunatamente un fenomeno. Esiste una difficile a raccontarsi, anche dolorosa per molti a raccontarsi, non vi leggo nemmeno gli sms di persone indignate, parlano di bollire la gente nell'olio bollente, di cacciare tutti, via dicendo, ma più è forte il tasso di rabbia, più capisco c'è qualcosa che in realtà risponde a verità. I signori che mi hanno segnalato come se fosse un evento particolare, delle signore che caricano in macchina i bei ragazzi che vendono la merce ai bordi delle strade, non trovo che sia particolarmente singolare o scandaloso, perché se andate adesso, uscite da Roma lungo la via Salaria o lungo la via Tiberina, è pieno di prostitute, schiave africane messe lì a fare le prostitute, e c'è la fila di uomini che le caricano. Le signore si organizzano diversamente, l'integrazione è già avvenuta su terreni pericolosi, su terreni violenti a volte, su terreni sicuramente sbagliati, ma è già più avanti di quello che noi immaginiamo. Larissa, buongiorno. Sì, buongiorno. L'ascolto. Buongiorno a lei, mi fa piacere, io l'ascolto tutti i santi giorni. Allora, siccome ho riferito prima, io lavoro a Pescara, mi trovo ormai da tanto tempo in Italia, non mi è mai successa una cosa di genere, questo sto dicendo più o meno verso il... cioè, 5-6 anni fa, come minimo, tornavo la sera a casa e mi si avvicina un ragazzo molto giovane. Io pensavo, dico, sono straniera pure a lui, allora vuole qualche informazione. Lui, in maniera aperta, mi si è offerto. Io dico, guarda, tu non stai male, non stai bene, sei malato. Dice no, dice, sono tante signore come lei, ma parlava benissimo italiano, dice, io vedo che lei è straniera, dice, si può divertire in diversi modi. Dico, no, guarda, tu veramente sei malato. Vabbè, Larissa, malato. Chiamo i carabinieri. Ma perché malato, scusi? La confusa con... Io posso essere tua madre, questo è detto. Ma allora abituato che signore, che potevano essere sua madre, gli offriano denaro in cambio di prestazioni sessuali. Cioè, lui mi dice, io così, dice, sta bene lei, sto bene io. Dico, guardi, facciamo così, tutti allontani, se no chiamo i carabinieri. Vabbè, lei giustamente stato... si è indignata, però lei mi dà conferma, se questo ragazzo normalmente si è offerto a lei, signora, diciamo, Agé, era normale per lui essere, diciamo, intercettato dalla signora Agé che davano a lui denaro in cambio di prestazioni. Quindi conferma comunque il trend. Geng, buongiorno, senegalese. Sì, buongiorno, complimenti di nuovo per la trasmissione. Cosa ne pensa lei, diciamo, di quello che sto dicendo, raccontando? Intanto voglio dire una cosa, perché si dice nero ma non di colore, perché per non essere per essere meno falsi. Va bene, Nero, scusate, ma ogni tanto uno è anche vittima di quello che delle condizionamenti. Per una vita mi hanno detto di dire di colore. Adesso dice nero, va bene, a me non cambia nulla. Se lei va bene così. No, ma è giusto, non è che mi va bene, dico per il giusto. Va bene, Nero, ok, Nero, andiamo. Uno va chiamato per il suo nome, quello che è. Vabbè, lei avesse chiamato Nero, benissimo, vabbè, allora dica. Perfetto, e poi dico un'altra cosa, tutti i signori che vogliono gli africani fuori, ma sulle strade italiane che sono piene di nerete prostitute, chi è che ci va? Manco un africano non ci va. Allora, se vogliamo dare sempre la colpa all'africano che non ha creato il gigolò, perché il gigolò non l'ha creato l'africano. Ma secondo lei, ma Geng, questo è stato, l'abbiamo ampiamente detto, abbiamo detto, sì, agli italiani accorgetevi come voi andate a usufruire di schiave, perché sono schiave quelle sulle strade, le vostre signore comunque sia fanno la stessa cosa con i ragazzi. Secondo lei... anche c'è una domanda da fare, la domanda da fare è perché l'italiana va in cerca dell'africano? Una bella domanda. Beh, risponda, se mi dà qualche elemento. No, io non la posso rispondere perché non sono mai andato con un'italiana. Non lo so, sinceramente io penso, immagino, perché sono persone giovani, sono persone prestanti, sono persone che danno una prestazione fisica senza bisogno di averci intorno tutto un corredo sentimentale, per la stessa ragione con cui gli uomini vanno con le donne, probabilmente. Allora non dobbiamo allora categorizzare proprio un fatto psicologico che è l'amore, far l'amore. Ma non c'entra niente fare l'amore. Qua non c'entra niente fare l'amore, sono prestazioni sessuali, l'amore non c'entra nulla. Ma c'è l'amore nel senso di fare sesso, diciamo. Di fare sesso, dico io. No, ma il senso di questa trasmissione era, caro signor Geng, semplicemente questo, di dire, rendetevi conto che sta accadendo nella società del vostro paese questo fenomeno, che le signore, le signorine comunque si sono sufficientemente emancipate per fare esattamente quello che fate voi. Probabilmente lo fanno in forma meno invasiva, perché poi i ragazzi che vanno con loro non sono schiavi di nessuno, magari di altri tipi di schiavitù. Però lo fanno, mi sembra abbastanza diffuso e normale che questi ragazzi, in fondo, siano considerati anche appetibili per le donne italiane. Cesare, buongiorno. Buongiorno. Sì. No, niente, io l'unico commento che volevo fare, cioè non porto esempi perché, vabbè, anche perché sono cose che secondo me sono vecchie come il mondo queste, e quindi visto che ci sono appunto centinaia di uomini come noi, cioè noi uomini, ci fermiamo con le donne di tutte le razze per strada e non vedo perché le donne non si devono fermare con degli uomini. Però non era mai stato detto con questa, diciamo, non era mai emerso nelle cronache come ormai un fenomeno di costume, diciamolo, era sempre tenuto un po' nascosto. È chiaro, c'è un'offerta di ragazzi giovani, di uomini giovani che hanno bisogno di denaro, certo, e c'è una richiesta di uomini giovani che hanno bisogno di denaro. Certo, infatti... A me fa, cioè nel senso, fa strano che si svegliano adesso a dare in giro certe notizie. Per me non c'è nessuna novità, insomma. Lei pensa che ha già diffuso, ma io ne parlo proprio perché è cominciato a venire fuori come filone di racconto. Poi su questi racconti è chiaro, c'è probabilmente una base concreta e anche intorno molto, molto aspetto folcloristico, di diceria. Però quando si suona tanto attorno a una certa nota, evidentemente c'è qualcosa di concreto. Francesco, buongiorno. Salve Nicoletti, saluto un po' tutti i presenti, diciamo gli ascoltatori. Io sono di zona, perché sono nella zona di Massa e l'ho letto l'articolo. Ora, al di là di quel dell'evento folcloristico, quello che mi lascia un po' perplesso è il fatto che bisognerebbe dare un po' alle parole il loro significato. Non so se si tratta di emancipazione in questo caso, perché queste persone sono qua in un determinato contesto. Ma avviene o no secondo lei? Ma secondo me avviene assolutamente, nel senso che questa cosa qui avviene perché noi ospitiamo in certe condizioni determinate persone che quindi si prestano anche a questo. Poi dopo c'è una disponibilità anche culturale. Ma probabilmente se fossero loro integrate verso il lavoro ci andrebbero perché gli piacciono lo stesso e non avrebbero bisogno di pagarli, ma la situazione non cambierebbe. Vabbè, ne abbiamo parlato abbastanza, ognuno poi si faccia il parere che vuole. Ho semplicemente approfondito quella che era una notizia, secondo me, che era ancora a livello di facezza. In fondo, qualcosa di fondo c'è di vero. Alla prossima.